Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. On my polo shirt and chase the haters out of earth. Get out, you bitches. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie attraverso l'animalità. Questa redazione mette infatti gli altri animali in pole position in ogni tipo di dibattito. Nelle notizie di attualità, di cultura, di economia, di medicina, alimentazione, filosofia, spiritualità e altro ancora. Restate all'ascolto per capire meglio cosa intendiamo dire. There's a star. Nella puntata di oggi, che è la numero 665, partiamo da Borzonasca in Liguria per parlare di una vicenda che ha riguardato un gruppo di cavalli che vivono liberi sulle montagne sopra Genova. Poi andremo in Romania per un'investigazione sulla condizione dei cincillà allevati per la loro pelliccia. Raggiungeremo la Cina, dove gli attivisti continuano a contrastare con azioni coraggiose le macellazioni di cani e gatti, e parleremo dell'eclissi di sole e dei suoi effetti sulla vita degli altri animali. Non mancherà una ricetta vegana a cura del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, che ha curato anche il montaggio musicale di questa trasmissione. Speriamo di avervi incuriosito. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Partiamo con una bella notizia che arriva dalla Liguria. Nei giorni scorsi 7 cavalli liberi e selvaggi erano stati catturati e costretti in un recinto nel comune di Borzonasca, sopra Genova. Si tratta di un piccolo gruppo di cavalli che fa parte di un branco molto più grande che da anni vive libero e selvaggio nel Parco dell'Aveto. Le associazioni animaliste che seguono da anni i cavalli liberi del Parco dell'Aveto e che li conoscono bene li hanno riconosciuti subito e hanno denunciato il sindaco di Borzonasca, sostenendo che la cattura non fosse dovuta al pericolo che secondo il sindaco questi cavalli avrebbero provocato ad automobilisti aggirandosi ai bordi di una strada, bensì che fosse stata attuata per cederli a un allevatore della zona, essendo nella maggior parte cavalle femmine in età riproduttiva. Lo scopo sarebbe stato quindi quello di trasformare le cavalle in fattrici per generare cavalli da destinare a scopi commerciali. Il sindaco di Borzonasca è stato denunciato quindi dall'associazione AIDA, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, perché la cattura non ha tenuto conto di aspetti etologici e del benessere di quei cavalli, quindi ha violato l'articolo 544 del codice penale, quello sul maltrattamento degli animali. Inoltre, sempre l'associazione AIDA si era dichiarata pronta a ulteriore denuncia per il reato di peculato se i cavalli fossero stati affidati a un allevatore non rimessi in libertà. Nella trattativa a quel punto è intervenuta anche la deputata Michela Brambilla, storicamente iscritta a Forza Italia e oggi nuovamente eletta in Parlamento nel gruppo misto, che forte dei rapporti personali e politici con il presidente Toti della Liguria, anche lui di destra, ha fatto pressione perché i cavalli catturati fossero liberati e riportati in altura. dopo alcuni incontri, è stato deciso di riaccompagnare i 7 cavalli in quota nel parco dell'Aveto, sopra i 1000 metri, perché si ricongiungano al gruppo di cavalli liberi più grande del quale fanno parte, che a quell'altitudine non impatta sulla vita dei cittadini. Ovviamente un gruppo di cavalli liberi è tale solo se può spostarsi e quindi non c'è alcuna garanzia che gli animali non tornino a scendere a valle con il relativo impatto sulla viabilità stradale, cosa che evidentemente crea alcune preoccupazioni. Per cercare di ovviare a questo inconveniente è stato deciso di varare un provvedimento per gestire la popolazione di cavalli dell'Aveto, al fine di mantenerla in un numero equilibrato rispetto al territorio, proteggere i cittadini e valorizzare la biodiversità. Però bisogna cercare di capire cosa significherà tale provvedimento, perché fare il controllo delle nascite non è così semplice su dei cavalli selvaggi. Occorre sterilizzarli e se ci si lasciasse prendere la mano potrebbe anche voler dire estinguerli. Al contempo la regione ha accolto la proposta di realizzare uno sbarramento ecologico che impedisca agli animali di scendere troppo a ridosso delle frazioni più abitate, in modo da risolvere la situazione senza creare danno a nessuno, né alle persone né ai cavalli. La soluzione va accolta positivamente nel suo complesso in quanto è cruelty free, cioè si è evitato che i cavalli venissero privatizzati, ceduti a degli allevatori, macellati, uccisi, eccetera. Però non possiamo non notare che siamo comunque ad affermare la necessità di una separazione fisica, a mezzo di barriere, che non saranno gabbie, ma sono comunque barriere, tra il mondo selvatico e quello umanizzato. Davvero pensiamo che sia questa la soluzione giusta? Abbiamo chiesto un parere all'etologo antispecista Francesco De Giorgio. Sapete che ci sono stati 7 cavalli che appartengono a un gruppo più grande di cavalli che vive rinselvatichito sulle montagne alle spalle di Genova, quindi sull'Appennino Ligure, e che questi 7 cavalli sono scesi in fondo valle. È probabile ed è facile che diversi gruppi di cavalli, a causa di scarse condizioni, ricordiamo che quest'estate è stata molto arida, molto secca, probabilmente questi cavalli sono scesi perché adesso con l'autunno riesce leggermente un pochino di erba un pochino più fresca, magari erano scesi giù per trovare qualche fonte d'acqua, eccetera. E quindi questi non sono casi strani di cavalli che scendono giù. E quindi invece di recluderli in un'area anche piccola, anche senza cibo né acqua in realtà per diversi giorni, adesso so che hanno preso la decisione la regione di riportarli in montagna, ma questi casi si verificheranno sempre. Quindi sarebbe buona norma, etica, ma anche moderna, sviluppare per le amministrazioni locali, sviluppare per i loro concittadini una cultura dell'animalità, perché molto spesso questi passaggi e questi transiti di animali, che siano selvatici, rinselvatichiti, bradi o semibradi, semiselvatici o del tutto selvatici, si verificheranno sempre di più. Quindi sarebbe utile e direi fondamentale fare educazione animale. Ecco, noi facciamo tanta educazione ambientale, spesso nelle scuole, con non molta efficacia, ma io direi che dovremmo fare anche dell'educazione animale, cioè un'educazione all'animalità, al contatto con l'animalità, perché molto spesso questi contrasti tra gli umani e gli altri animali si verificano sulla base di una non conoscenza, di una scarsa cultura dell'incontro con l'altro. E quindi i cavalli dell'Aveto, così come altre animalità, possono diventare invece un luogo di educazione all'animalità, una possibilità per ritornare anche per gli umani all'animalità. In effetti sembra notte fonda, l'ennesima eclisse tra un dolore e un altro. Dopo le riflessioni che abbiamo fatto sulla dimensione animale selvatica e sulla relazione conflittuale che ha con questa la società umana, passiamo a parlare di una relazione più complessa e misteriosa, ovvero l'influenza che hanno le eclissi di sole sul comportamento animale. C'è stato interesse intorno a questo tema perché nei giorni scorsi, il 25 ottobre, si è verificata nella tarda mattinata un'eclissi parziale di sole, che è stata visibile anche dall'Italia. A spiegare gli effetti che l'eclisse provoca negli animali è stato Emiliano Mori, ricercatore dell'Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del Consiglio nazionale delle ricerche. Dal ritorno nell'alveare delle api ai vocalizzi notturni di uccelli e anfibi, ai ragni osservati disfare le proprie tele nel buio per poi ritesserle al rispuntare del sole. Questi sono alcuni degli effetti che l'eclisse solare provoca negli animali. Nonostante la breve durata di questi eventi, durante le eclissi si rilevano variazioni dell'intensità luminosa, della temperatura e della velocità del vento. E anche se non sono considerevoli, queste variazioni interrompono o comunque influenzano i ritmi circadiani di un'ampia varietà di animali, mammiferi, ma anche insetti, uccelli, portandoli a modificare improvvisamente i loro comportamenti e le loro abitudini. Vengono registrati i classici comportamenti delle ore serali o notturne, come il ritorno ai nidi e agli alveari o le vocalizzazioni serali. In alcune specie, cani, cavalli, giraffe, babbuini, gorilla, corvidi e fenicotteri, può svilupparsi uno stato ansiogeno, suggerendo una risposta di paura o comunque legata a sentimenti negativi. Comportamenti associati all'inizio della notte, per esempio uscire dal sito di rifugio per iniziare a muoversi nel bosco o nei campi, sono stati osservati in specie domestiche come ovini e bovini, ma anche in specie selvatiche, quali ad esempio pipistrelli, falene e uccelli rapaci. Le eclissi, totali o parziali, determinano effetti anche sul comportamento degli uccelli. Per esempio, certi aironi, prevalentemente notturni, abbandonano i loro posatoi diurni per spiccare il volo. Al contrario, uccelli ad attività diurna, come i pellicani, raggiungono subito i loro dormitori. Passiamo ai nostri parenti più prossimi, che sono i primati. I macachi rhesus, prosegue sempre Mori, si frammentano in sottogruppi più piccoli per prepararsi a dormire, fino alla conclusione dell'eclissi. Nei gorilla in cattività sono stati osservati fenomeni di rientro presso la struttura di riposo notturno. I ragni, al termine dell'eclissi, ritessano la ragnatela come al mattino. Le cicale aumentano il loro frinire poco prima dell'oscurità, per poi zittirsi nella fase di buio, che rende invece attivi i grilli e le libellule. Gli spostamenti delle api si interrompono bruscamente, probabilmente a causa della diminuzione della luce polarizzata, che è essenziale per i loro viaggi di fiore in fiore. Gli anfibi, come le rane verdi, durante un'eclissi solare aumentano le vocalizzazioni, mentre leoni, coccodrilli e zebre sembrano invece non mostrare alcuna alterazione comportamentale. Eventi astronomici, come le eclissi ed effetti sui sistemi biologici sono ormai oggetto di approfonditi studi scientifici. Tuttavia, avverte Emiliano Mori, data la natura fugace e rara dell'evento, trarre conclusioni generalizzate sarebbe un errore, quindi è meglio lasciare aperte molte ipotesi. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Gli animali, come abbiamo visto, hanno un rapporto fortissimo con l'ambiente che li circonda, un rapporto per il quale si sono sviluppati nei millenni, cioè il loro comportamento è il risultato di un'evoluzione continua che è ancora in corso. Pensate quindi a cosa può significare per un animale essere privato del suo habitat e costretto in una gabbia a vita fino alla morte. È una cosa inimmaginabile, nemmeno il carcere a vita per gli umani si avvicina a questa condizione, perché in fondo il carcere è pur sempre il frutto della cultura umana, mentre per un cincillà trovarsi costretto a vivere in una gabbia significa un'esperienza veramente mostruosa che non può arrivare a capire. È all'interno di questo vasto tema che si sviluppa la nostra prossima notizia. In questo periodo, infatti, centinaia di migliaia di cittadini europei stanno chiedendo a gran voce un divieto di allevamento di animali da pelliccia e il divieto della commercializzazione dei prodotti di pelliceria in tutta l'Unione Europea. Proprio in questo momento, una investigazione di Humane Society International Europe viene pubblicata sugli allevamenti di cincillà in Romania, una pratica crudele che in molti paesi europei, inclusa l'Italia, è ormai vietata. Le terribili immagini che sono state divulgate vogliono essere una spinta per vietare gli allevamenti e il commercio di pellicce in tutta l'Unione Europea, che poi è l'obiettivo della campagna in corso, che si chiama Fur Free Europe. Fur significa pelliccia. L'indagine mostra immagini a cui purtroppo ci siamo abituati. Animali costretti a vivere in piccole gabbie metalliche all'interno di strutture sporche e senza finestre. I cuccioli di cincillà faticano a camminare sul filo metallico delle gabbie e masticano le sbarre nervosamente per lo stress. Sul pavimento sono presenti cumuli di escrementi. I cincillà sono animali sociali e nonostante questo vengono rinchiusi in gabbie singole e lo spazio a loro disposizione non è che una minima parte di quello che avrebbero in natura. Come nel caso di altre specie, le femmine di cincillà sfruttate per la produzione di pellicce sono poi sottoposte a cicli di gravidanza continui, a volte anche poche ore dopo il parto si ricomincia. Human Society Europe racconta che il sistema di accoppiamento poligamo adoperato dagli allevatori è totalmente innaturale e molto stressante, perché obbliga i singoli animali maschi a riprodursi anche con 10 femmine, mentre a queste è applicato un collare che serve a impedire loro di scappare durante la fase di accoppiamento. L'indagine solleva molte preoccupazioni sui metodi utilizzati per uccidere i cincillà allevati. Alcuni allevatori hanno dichiarato all'investigatore di operare la rottura del collo, una politica che però non rientra tra i metodi di uccisione autorizzati per i cincillà nel regolamento CE. Un altro allevatore invece ha mostrato una camera a gas fatta in casa, utilizzando una pentola a pressione. Dopo la pubblicazione di queste immagini, i deputati del Partito Nazionale Liberale rumeno hanno presentato una proposta di legge per vietare l'allevamento di visoni e di cincillà. Secondariamente, l'associazione ha fatto anche notare che l'industria delle pellicce di cincillà è in crisi da tempo. A noi non sembra un argomento spendibile. Il trattamento di questi animali, infatti, non sarebbe più accettabile se i profitti fossero alti. Ciò non di meno, un allevatore di cincillà ha ammesso che in passato arrivava a produrre 4.000 pelli all'anno, mentre ora è sceso a 1.500. Dunque, questo è un momento storico molto importante per gli animali che vengono allevati e uccisi per la loro pelliccia in Europa. La campagna Fur Free Europe è nel pieno del suo svolgimento. Si tratta di un'iniziativa dei cittadini europei che chiede all'Unione Europea di vietare gli allevamenti, l'importazione e il commercio di pellicce. Possiamo dunque incidere direttamente, anche qui dall'Italia, sul futuro degli animali ancora oggi sfruttati per la loro pelliccia in altri paesi europei, compresi i cincillà della Romania, di cui questa indagine, della quale vi abbiamo parlato, ha mostrato chiaramente le gravi sofferenze. Invitiamo quindi tutte le persone in ascolto a firmare e a diffondere la raccolta firme. Per trovarla basta digitare in rete Fur Free Europe. In Europa stiamo portando avanti campagne per cessare l'allevamento degli animali da pelliccia, una tradizione che anche molte persone che ancora mangiano la carne e gli altri prodotti di origine animale sono disposte a condannare. Abbiamo quindi anche noi le nostre contraddizioni, così come le hanno altre culture e altri popoli del mondo. Prendiamo la Cina, per esempio. Noi abbiamo molti pregiudizi verso il popolo cinese, ma c'è una Cina che non ci aspettiamo, una Cina fatta di attivismo per gli animali, con azioni dirette e anche pericolose. Per esempio, qualche giorno fa il gruppo animalista cinese Capital Animal Welfare Association è riuscito a bloccare un grosso camion carico di cani e gatti destinati al macello. L'operazione, che è già definita dal record, è avvenuta nella città di Xiantao, nota località della provincia di Hubei, nella Cina centrale. Grazie alla collaborazione con il gruppo di animalisti cinesi, la polizia ha potuto intercettare il camion che trasportava gli animali verso Yulin, dove li attendeva il macello. La scena che si sono trovati di fronte gli agenti e gli attivisti è stata straziante. «Non ho mai visto nulla del genere», è stato l'amaro commento rilasciato da Hao Da Yue dopo la confisca del carico da parte della polizia cinese. Cani e gatti erano stipati in gabbiette minuscole, senza acqua né cibo. E dei 1.408 animali rinvenuti, 370 erano già morti. L'odore della morte e del vomito dei poveri sopravvissuti, ha commentato Peter Lee di Human Society International China, che ha diffuso le drammatiche immagini, era insopportabile. Sono sopravvissuti 718 cani, che probabilmente erano cani domestici, e 690 gatti, sicuramente rapiti dalle strade. A tutti loro è stata data immediatamente dell'acqua e poi le prime cure. Dopo aver ripreso le forze, gli animali potranno sperare in un futuro affidamento. Voglio elogiare gli attivisti cinesi per il loro duro lavoro e per l'impegno profuso contro la tratta degli animali, ha tenuto a sottolineare Peter Lee. Una tratta che, nonostante la legge vieti la macellazione di cani e gatti, continua a tradursi in milioni di questi animali macellati ogni anno, per onorare una tradizione crudele e barbara che deve essere superata. Taste all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, beg, borrow, or steal, and all you create, and all you destroy. And all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in you. And the sun is eclipsed by the moon. Anche questa settimana abbiamo sfidato il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, chiedendogli di dedicare una ricetta cruelty free, questa volta all'eclisse. Riuscirà il nostro talentuoso chef a trovare anche questa volta il nesso? Sentiamo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Eclissi solari, avete detto? Vediamo che effetto farà sui vostri commensali questa pasta fresca ripiena, servita come un grosso sole nero. Una presentazione gotica adatta anche per Halloween. Sole nero ripieno alla zucca e noci. Gli ingredienti per 4 persone sono, per la pasta dei ravioli, 100 g di semola di grano duro, 40 g di farina tipo 0, 20 g di farina di ceci, 80 ml di acqua, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, 5 g di carbone vegetale in polvere e sale. Per il ripieno, 500 g di polpa di zucca butternut, 2 spicchi di aglio, timo fresco, 100 g di noci sgusciate, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Infine, per condire, dell'olio extravergine di oliva, timo e pepe. Prima di tutto, preparate la pasta. Fate sciogliere il carbone vegetale nell'acqua, setacciate le farine e disponetele a fontana su una spianatoia, versate al centro l'acqua e l'olio extravergine, aggiungete un pizzico di sale e lavorate per una decina di minuti fino ad ottenere un impasto liscio e compatto. Avvolgete la pasta nella pellicola e fatela riposare per 30 minuti. Nel frattempo preparate il ripieno. Tagliate la polpa della zucca a pezzetti e fatela cuocere con l'aglio in camicia rosolato in olio extravergine. Fate cuocere a fuoco lento col coperchio fino a quando la zucca risulterà molto morbida e asciutta. Schiacciate il tutto con una forchetta fino a ottenere una purea di zucca e lasciatela raffreddare. Una volta raffreddata, aggiustate di sale e pepe, unite il timo fresco e le noci tritate grossolanamente. Recuperate la pasta e tiratela in una sfoglia sottile di circa 3 mm di spessore. Ricavate dei grossi dischi, ne servirete uno per ogni porzione, di circa 15 cm di diametro. Mettete al centro di ogni disco di pasta una generosa dose di farcia, quindi sovrapponete un altro disco di pasta e chiudete sigillando i bordi con i rebbi di una forchetta. Lessate ravioli neri giganti in acqua bollente, facendo molta attenzione a non romperli scolandoli. Adagiate su piatti e condite semplicemente con olio extravergine, qualche foglia di timo fresco ed una macinata di pepe. Hang my head, drown my fears, till you all just disappear. Black hole sign, won't you come? Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina. L'ultimo, edito da Newton Compton e fresco di ristampa, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.